And now here's the first part of that scene again. Scusi, lei è della Top Qual? Top Qual, yes. Allora, è la signorina Jenkins, vero? That's me. Buonasera e benvenuta a Firenze.